sul porto ballano i pescatori con le loro donne vestite a fiori, sembrano stelle cadute dal cielo, angeli sul litorale sembrano felici, sembra Natale. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Forse anche noi potremo ricominciare una nuova vita, un nuovo amore. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Dammi la mano che ho tanto freddo in questo giorno che si muore dal caldo. Nevica sole sul loro cuore, nei loro occhi c'è tanto amore. Prendi la rete che buttiamo in mare, le nostre pene, il nostro dolore. Della rugiada ne faremo sale per questa terra che ci dà da bere. Ci sono spine che non hanno un nome, il tempo solo le può guarire. Sul porto vendono fresche acciughe, sembrano vive, appena pescate, e poi ti guardano con un sorriso. Siamo inferno, a volte paradiso, un crocevia tra il giorno e la notte. Gli uomini sognano con le scarpe rotte. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Forse anche noi potremo ricominciare una nuova vita, un nuovo amore. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Dammi la mano che ho tanto freddo in questo giorno che si muore dal caldo. Sul porto sbarcano i passeggeri del sole, hanno con loro il profumo del mare. La luna buca perché è fotogenica, quando sei in posa non essere statica, meglio quando sei naturale. Non farci caso, non mi farò vedere, ne sono certo, ho le mie colpe, le mie streghe, le mie isole greche, i miei non detti, le mie rughe, i miei difetti, sempre testardo come un mulo, fiero, bastione è chiuso a riccio, lo so, spesso il mio cuore. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Forse anche noi potremmo ricominciare una nuova vita, un nuovo amore. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Dammi la mano che ho tanto freddo in questo giorno che si muore dal caldo. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Forse anche noi potremo ricominciare una nuova vita, un nuovo amore. Gesù, Maria, l'asino e Giuseppe sono partiti per nuove rotte. Dammi la mano che ho tanto freddo in questo giorno che si muore dal caldo.